Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Beh, la musica nasce per quello, no? Nasce così, cioè l'origine della musica. La musica nasce addirittura prima delle parole, prima del linguaggio, no? Gli archeologi, gli studiosi della società umana ci dicono che prima nasce la musica e poi nascono le lingue. Quindi la musica nasce perché si danza insieme, perché ci si vuole bene, perché ci si vuole male, perché si fa la guerra. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. Ci sono delle persone che ti si fissano in testa e non c'è verso di farle andare via. Avete presente quei ragazzi che si incontrano da piccoli e che non si dimenticano mai? Non si dimenticano perché li vediamo crescere, sia fisicamente che di testa, e ne seguiamo le evoluzioni. E anche se alcune tappe ci arrivano in maniera indiretta, c'è sempre il momento in cui ci ricapitano davanti e ci accorgiamo di quanto sono cambiati, di quanto si sono fatti grandi. Lorenzo Giovanotti Cherubini è uno di questi. Ci ha fatto passare dei momenti spensierati e fatto sorridere in tutti questi anni. Lo abbiamo mandato a quel paese, abbiamo cantato e ballato con lui. Ci ha stupiti e lasciati perplessi. Ci ha persino commossi. Lorenzo è una vita. Una vita che ci è passata davanti agli occhi. Una storia che conosciamo e che ogni tanto ci piace raccontare. Il mio nome è Lorenzo, potrebbe non aver senso, ma da quando sono nato dico quello che penso, dico quello che vedo. Mi guardo in giro, utilizzo questo ritmo nero, funky, duro e carico di bassi. E su di lui ho costruito sintassi e frasi e storie e strada dove vivo. Muovi la mano con la quale io scrivo e dammi la carica, dammi l'energia. Molta cattiveria, poca melodia. Tacca, tacca, tacca, tacca, taccami la spina. Non ci sono segreti nella storia di questo ragazzo, perché questo ragazzo la vita l'ha vissuta per la maggior parte davanti alla gente e dietro un microfono, con l'aggiunta o meno di una telecamera. La sua voce ci è familiare, la sua risata e la sua zeppola sono particolari che conosciamo molto bene, e certamente anche le sue idee, il suo modo di vestire, il suo modo di ballare. Ecco perché ci viene da chiamarlo per nome, ed ecco perché se lo incontriamo non ci viene voglia di saltare addosso a una star e strapparle un pezzo di vestito, ma ci sentiamo di più di dargli una pacca sulla spalla, un abbraccio, una stretta di mano, o magari un bel 5, come fanno gli americani. I think baby, gonna show you my stuff. I gotta tell you the way to hit the top. Hey, you can do it. All right, good God. Hey, will you do it? Dig it, dig it, dig it, come on. Hey, you can do it. Io ho sempre disegnato da bambino, volevo far quello di lavoro. Cioè il mio sogno da bambino era di disegnare in realtà, di fare il pittore. Volevo fare il pittore, volevo dipingere, volevo... Sognavo di disegnare fumetti, per cartoni animati, queste cose qua. Non ci è dato sapere la data esatta di quando Lorenzo ha incontrato la musica. Non ci è dato saperlo perché in realtà la musica è una presenza costante nella vita di Giovanotti, fin da quando è un giovane, Giovanotti, come tanti altri. Ma è un incontro che c'è stato, è lui stesso a dirlo. Forse più che parlare di quando, è necessario parlare di come. E qui entrano in scena le cuffie. La giovinezza di Lorenzo è divisa tra Roma, il padre lavora in Vaticano, e Cortona, di cui è originaria la sua famiglia. Qui Lorenzo fa le sue prime esperienze come DJ per Radio Foxes e per una discoteca locale. Ci prende gusto, e il passo verso radio e discoteche più conosciute della capitale è breve. Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy. Se sei un DJ esagerato, come imparerà presto a dire Lorenzo, sono questi i gruppi di riferimento. Screcciare su questa musica è divertente. E se sei uno bravo, la gente si scatena. Le parole non sono difficili. Ce ne sono tante perché il rap è così. È un discorso messo dentro a un giro di basso e batteria semplice, un riff, qualche rumore elettronico. E il gioco è fatto. Rock, rock around on Miz, the progression of the DJ sound. Then call him brother, call him friend. The name is Jovanotti, do you understand? Pump up the volume, bang, bang. Pump up the volume, bang, bang. DJ! Un grande esperimento adesso da Radio DJ Network. Sapete che alle 4 noi facciamo sempre dei grandi esperimenti di interesse pubblico. E allora, in realtà c'è un particolare fondamentale in quelle parole, in quel discorso c'è un messaggio importante. Il rap ha una sua dimensione e un suo obiettivo che non è solo quello di far muovere la gente e mettere le frasi in rima, ma è anche quello di protestare, di raccontare, di irrompere nel cervello di chi ascolta. Questo in teoria, naturalmente. Ma la pratica non attecchisce dappertutto. Non negli anni Ottanta, almeno. Non nelle discoteche italiane. Non nelle radio commerciali. E non in quei giovani che si dimenano davanti a Lorenzo. La parola d'ordine lì è intrattenimento puro e semplice. Lo dice anche lui. Anche il guru. Dormire. Klaxon. Campana. Ok. Baciare. Capelli. Saluti. Saluti. Mettete un'idea in testa a Claudio Cecchetto e come per magia l'idea vi apparirà poco dopo davanti al naso. Sentitelo parlare con quel caschetto disordinato, quei piccoli occhi chiari e quel naso adunco e ne verrete travolti. Basta seguirlo e ne vedrete delle belle. Certe persone nascono e rinascono 7 volte come i gatti, anche di più. Negli anni Ottanta Cecchetto è una specie di guru dell'intrattenimento, non sbaglia un colpo, che si tratti di musica, di talenti da scoprire e lanciare, di trasmissioni da inventare o condurre. Sembra un maledettissimo re Mida. È nato come disc jockey e ha cominciato bazzicando nelle radio. Ed è proprio nella radio che vuole menare il fendente migliore. E io, in ogni caso, avevo in mente Radio DJ. Capito? Non avevo in mente Radio Music in evoluzione, certo. Avevo in mente Radio DJ. Quando Cecchetto dice di avere qualcosa in mente, non pensate che si tratti di un'idea vaga, di un semplice spunto o di un abbozzo. Là dove gli altri cominciano a immaginare, Cecchetto macina. La sua mente è un miscuglio di idee, coraggio e senso degli affari. Siccome è un marchio che deve essere conosciuto, io preferisco che le uniche parole che sentiranno, che dovranno sentire dalla radio, certo, è il nome della radio, per fare... Certo. Marketing, insomma. Ecco, è tutto lì chiaro, evidente, cristallino e semplice. E così viene il resto. Radio DJ prende vita e Lorenzo ne diventa parte perché era già tutto nella testa di Cecchetto. È vero che si erano già sfiorati un paio di volte, i DJ non sono molti, le voci circolano, ma questa è tutta un'altra cosa. Nel viaggio da Roma a Milano per partecipare alla nascita di questa creatura di Claudio, Lorenzo si porta dietro, oltre alle cuffie, l'unica cosa che si è scelto. Un nome. Poi quando arrivai a Milano da Claudio, da Cecchetto alla radio, lui disse: Jovanotti, non so se mi piace molto questo nome, poi ci penserò. E poi il giorno dopo lo rividi e mi disse: ci ho pensato, mi piace molto. Visto? Non ci si deve dannare l'anima più di tanto, basta dormirci sopra una notte ed è fatto. E così Jovanotti diventa una mania, uno spilungone che balla, canta e si dimena, condendo il tutto con una risata che non riesci a toglierti dalla testa. Fa tutto Jovanotti, radio, televisione, persino musica. Anche se qualcuno storce il naso, non si può definire musica quella roba. È solo una voce che emerge dal baccano della festa, perché è di questo che si occupa Lorenzo in quegli anni. Di fare festa. Ciao. Però io quando ho iniziato a lavorare alla radio, mi dicevano: ma tu non puoi fare la radio con questa S, cioè hai una S che non ti permette di fare la radio. Poi invece quando io ho cominciato è diventata una cosa che è una caratteristica. Lorenzo ha fatto irruzione nel mondo dell'intrattenimento e lo ha fatto con il suo stile personalissimo e quell'energia che sembra non esaurirsi mai. Ma conosciamo tutti la storia. Se diventi famoso, devi fare i conti con le invidie, le critiche, le malignità. Soprattutto se le tue qualità arrivano sfumate, non si vedono bene. Sono ancora un po' nascoste, si riparano dietro il volume e il generico. Piovono attacchi su giovanotti che potrebbero rovinare la festa. Bisognerà prima o poi pensare a difendersi. E leggevo l'altra sera una cosa bellissima di Borges, no? che lui diceva: tutte le critiche che leggono rivolte a me, io sono d'accordo con queste critiche e anzi potrei scriverle anche meglio. Chissà quanto e come le critiche vanno a bersaglio, o quanto invece rimbalzino sulla visiera del cappellino da basket che Lorenzo indossa spesso. È un peccato dover sopportare tutte quelle parole cattive rivolte al suo indirizzo. In fondo lui è solo lì per far divertire, per rendere le giornate meno noiose. Forse basterà attendere un po' di tempo, e allora vedremo se Jovanotti diventerà uno dei tanti piccoli intervalli che inframmezzano la nostra vita, oppure se ha qualcosa dentro che possa essere qualcosa di più di una semplice pausa rilassante. Chissà cosa ne pensa lui, Lorenzo, di tutta questa storia. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa, ci si conosce tutti, come in un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese, il giorno cambia leggi e cambia governi, e passano l'estate e passano gli inverni, la gente della notte sopravvive sempre. Nei locali, confusa tra le ombre. A un certo punto, forse per mancanza di alternative o forse perché gli piace l'idea a Lorenzo, decide di mettere quello che pensa nelle canzoni. Non stiamo parlando di un pensiero fugace, di una risposta a una domanda venuta fuori improvvisamente o di qualche piccolo consiglio. Stiamo parlando di vita che circonda, di sensazioni che attraversano, di emozioni che prendono forma. Lo spilungone non ha perso la verve e non ha smesso di ridere, semplicemente ogni tanto si mette lì e riflette. E lo fa aggiungendogli sotto una base melodica, per lo più rap, ma c'è anche la chitarra se necessario. E le riflessioni non devono essere poi così banali, perché i giovani le ascoltano, le cantano e se le imparano volentieri a memoria. Per un artista è importante essere espressivo, avere qualcosa che gli brucia dentro, che ha voglia di tirar fuori, può essere contro, può essere a favore. A cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, il mondo improvvisamente ha un sussulto, uno di quelli che finiscono nei libri e nei documentari. Cade il muro di Berlino, crollano il comunismo e la Russia, improvvisamente 40 anni di storia trovano un punto per andare a capo. C'è uno strano fervore che attraversa la gente. Il futuro torna ad essere una domanda e non più una conseguenza. C'è una specie di energia che scorre e pulsa nel pianeta con quel misto di paura e fascino. C'è la sensazione che qualcosa vada fatto, che si possa cambiare, che si possa fare una scelta. Che cos'è vivere se non questo, se non reagire alle cose che ti capitano cercando di affrontarle, cercando anche di trasformarle in modi per diventare ancora più forti, per diventare ancora più uniti anche. Anche Lorenzo sente che le cose sono cambiate, che lui è cambiato e non è più il tempo di facili canzonette. Ha bisogno di un partner che lo aiuti a crescere. Ma in realtà io ho già avuto un'esistenza fino adesso veramente felice. Cioè, sono nato in una famiglia serena e mi hanno iniziato lo studio della musica da piccolissimo. A 5 anni ho iniziato a studiare violino. Sono cresciuto ascoltando classica, Liscio, cantautore italiano, Police, capito, un bel Bob Marley. Tutti i generi musicali. Tutto, sì. E da questi generi mi sono fatto assolutamente attraversare. Eccolo qui, Saturnino Celani, una vita passata a pizzicare corde. Ha la faccia simpatica, Saturno. Nessuno questo lo può negare. Gli occhi gli sorridono sempre dietro a quegli occhiali. Quando si incontra al molo con Lorenzo in quel porto immaginario in cui Jovanotti cerca la sua destinazione, Saturnino in testa ha solo la voglia di salpare verso qualche posto sconosciuto e la sensazione che quel tizio, un po' sbarbatello, potrebbe essere un buon compagno di viaggio. Lorenzo, da parte sua, non vede l'ora di partire. E poi il bagaglio del suo nuovo amico è composto solo da un basso. Allora è deciso. Si parte. I magnifici destini. Sono io, quello di qui la festa, quello con il cappellino, quello senza la testa. Dovevate farmi fuori 6 anni fa, se volevate la tranquillità. E invece sono qui, vive ancora parlante, questo è il nostro quinto album, non sono un cantante, faccio il rap. Quella musica dura, quella senza melodia, quella che fa paura, paura. Ma dove andremo a finire? Ma Ma guarda un po' cosa ci tocca sentire. Intanto mentre sto parlando il rap è stato in Italia, questo genere del quale io mi sento una balia, senza false modestie. Quando si racconta di un amico, della sua vita, delle sue esperienze, ognuno sceglie degli episodi, dei momenti salienti che ritiene particolarmente significativi ed emblematici per spiegare la vita che si sta raccontando. Le storie sono belle anche per questo, perché cambiano prospettiva a seconda di chi le guarda e da dove le sta guardando. Il biennio 90-92 è senza dubbio un momento di svolta per Lorenzo Giovanotti Cherubini. L'incontro con Saturnino, un nuovo album tutto rap e funk, una nuova dimensione. Volendo scegliere, c'è un episodio in particolare che ci è rimasto dentro. Un colpo di spugna che non ci aspettavamo. Allora, praticamente, cioè, io adesso sto registrando un disco nuovo, no? Questo disco nuovo che sto facendo è all'insegna del rap, che è un po' il genere musicale più adatto, forse, per dirsi delle cose. Sono andato, l'altro lunedì sono andato a Londra a vedere un concerto dedicato ad una causa molto importante, ovvero l'AIDS, che è un problema molto grosso, specialmente per noi. Per tutti, penso, ovviamente per noi che viviamo un po' il mondo, no? Giusto? Ma per tutti noi che lo viviamo, giustamente. E io da questo concerto ho scritto un testo di una canzone che stasera vi canto, che ancora non abbiamo inciso, però ve la improvviso qui, infatti neanche me lo ricordo bene, me lo sono proprio portato scritto, e si chiama Sai qual è il problema? E fa più o meno così. È dura, ma è difficile anche per noi che lo facciamo, perché fare l'amore è ancora il massimo che abbiamo. Adeguarsi ai nuovi metodi per vivere 100 anni, cancellando tradizioni, miti vivi da millenni, e inserire un terzo incomodo di gomma puzzolente per amore di se stesso e per rispetto della gente. Il ragazzo spesso teso a pensare solo a se stesso, specialmente se si tratta di una storia di sesso. Ma le cose stanno cambiando, ancora è lungo il cammino, e la data nazionale per la festa del vaccino e della sua grande scoperta è ancora lontana, sia per chi va con la santa che per chi va con la puttana. Eccolo il colpo. Nel bel mezzo di Azzurro 92, una manifestazione che non brilla certo per impegno e finalità sociali, dopo la solita esibizione Lorenzo rimane sul palco e si mette a cantare un pezzo nuovo, inedito, un rap che parla di AIDS. Mentre lo presenta, tradisce una certa tensione. Chissà, forse qualche timore. Comunque lo porta fino in fondo quel discorso e poi se ne va via con un grazie, lasciando tutti di stucco. La gente quasi sembra non credere a ciò che ha sentito. Davvero lo spilungone che finora aveva cantato di feste, balli, benzina e fratelli e sorelle ha parlato di un tema così scottante, così scomodo e in quel modo? Veramente questo Giovanotti vuole fare sul serio? Beh, pare proprio di sì. Sono nato nella giungla delle raccomandazioni, quelle fatte alla Madonna e ai poli. Ci siamo! Il nostro amico ha imboccato la strada giusta, quella che lo fa sentire felice. Lorenzo si butta sul rap con tutto l'entusiasmo che ha e mettendoci dentro ogni singola goccia di sudore. E poi c'è il suo amico, Saturnino, che ci mette il groove e insieme formano una coppia niente male. Cioè io nel periodo in cui andavo in giro con Lorenzo, andavamo e facevamo promozione, eravamo in due. Cioè quindi automaticamente la figura del bassista, visto che c'è già il cantante, diventa più sottolineata, no? Certo, più importante. E cioè, siamo sempre stati chitarristi, quindi arrivi con il basso e crei uno spazio che era vuoto. Colmare lo spazio, questo è il segreto. Ma non c'entra solo la posizione. Lorenzo dovrà faticare per togliersi di dosso l'etichetta festaiola, ma c'è un'arma che si tiene stretta nella fondina, il coraggio. Ovunque vada, ovunque si muova, ovunque la sua attenzione venga colpita, Lorenzo dà un segno e lo fa parlando, rappando, ballando davanti agli altri, senza nascondersi, che i temi siano scomodi o più leggeri. Comincia a prendersi la responsabilità di quello che fa, finché non comincia ad avere le idee più chiare. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va. Quest'onda che viene che va. Quest'onda che va. Quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Niente. Ora la faccenda si fa interessante. Nell'arco di 2 o 3 anni succedono un sacco di cose. Ci sono 2 album che portano il suo nome, quello di Battesimo oltre a quello d'Arte. C'è un tour con Luca Carboni, un duetto con la Nannini. Poi toccherà a Pino Daniele ed Eros Ramazzotti. Sta arrivando anche un'etichetta propria, Niente male davvero. Anche la musica si sta evolvendo. Il suono di Lorenzo si fonde sempre di più con la sezione ritmica sulla quale vigila un attento Saturnino. Le parole scorrono che è un piacere. Sono finiti i tempi in cui irrompeva nelle canzoni in maniera anche grossolana. Ora è più maturo, ha imparato ad aspettare il suo turno, che la maggior parte delle volte è preceduto da un bel intro. La mia fortuna forse è di avere quello sguardo lì, sulle cose, comunque uno sguardo che per alcuni è infantile probabilmente, per me è semplicemente uno sguardo alla ricerca di quello che brilla, no? Di quello che luccica, e le cose che luccicano mi attraggono, le cose che in qualche modo mi eccitano, che sono in qualche modo riproduttive. Nella musica la dote non è rappresentata solo dalla tecnica. Esistono altre variabili, altri fattori che incidono e che vanno poi a confluire nell'unico indicatore che è rappresentato da quello che esce dal CD e da cosa riesce a trasmettere. Più passa il tempo, più Lorenzo diventa consapevole delle qualità che ha e di come riesce a miscelarle. E non è roba da poco, anzi. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi. Rido di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è. E che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Il viaggio intrapreso insieme a Saturnino agli inizi degli anni 90 lentamente si trasforma in un pellegrinaggio più lungo di quanto si potesse immaginare. Spinto dalla curiosità e affamato di domande e risposte, Lorenzo si spinge fino agli estremi del mondo, convinto che le leggi che regolano il pianeta e la linfa vitale di cui gli uomini si nutrono siano sparse per la Terra e in qualche modo vadano cercate. Comincia a emergere dalle parole che escono dalla sua bocca e dalle sue canzoni una vena spirituale molto particolare. Comunque tu dici la spiritualità, l'interesse per tutto quello che ha a che fare con le religioni, è una cosa che c'era anche quando ero bambino, insomma, e delle cose che poi magari i miei fratelli l'hanno sviluppata in un altro modo. Io, avendo avuto la musica mi ha aiutato a farle diventare musica. È una strana religione quella a cui si affida Lorenzo. C'è un Dio, ci sono bene e il male, c'è la natura, un pizzico di umanesimo e un po' di spirito di fratellanza, la pace e la protesta, che convergono tutti nella sua mente attraverso i libri e i viaggi per poi essere risputati fuori sotto forma di musica rinnovata. Sono gli echi del mondo che Lorenzo si è messo nel proprio bagaglio e che intende far suonare. Siamo in sella a una bici, a inseguire il nostro amico Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti, impegnato a esplorare il mondo e i suoi suoni con una due ruote. C'è anche il tempo per un libro, Il Grande Bo, una specie di personale manifesto messo nero su bianco durante il lungo girovagare. Sarà un amore profondo quello per la bicicletta, che gli permetterà puntuali scappatelle in qualche angolo del mondo per nutrirsi e ricaricarsi di quell'energia che tanto ritiene indispensabili per la sua musica e per il suo percorso. È un modo che rende molto di più da un punto di vista emotivo che non viaggiare per circuiti turistici dove alla fine non vedi le cose, no? È un po' come invece viaggiare in bicicletta, entrare nelle realtà. È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola. È per te ogni cosa che c'è. L'amore pervade la maturazione di questo ragazzo. Una fidanzata storica che diventa moglie e una figlia che si vanno ad aggiungere a tutto il resto, diventando il perfetto compimento della vita di Lorenzo, il quale riversa tutto nelle proprie canzoni senza paura di apparire melenso, anche perché prima o poi toccherà tornare a ruggire. Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, C'è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno. C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora. Il ruggito arriva e questa volta è potente, visto che altre gole si uniscono per dare volume. È un urlo indirizzato contro l'intervento militare nella guerra del Kosovo, cacciato fuori insieme a Ligabue e Piero Pelù. Un'altra dimostrazione che Lorenzo vuole fare sul serio e non si fermerà qui. Pochi anni dopo decide di radunare cantanti provenienti da tutto il mondo sul palco di Sanremo per chiedere la cancellazione del debito del terzo mondo. Stiamo parlando dello stesso ragazzo che saltellava urlando strani jingle in inglese con il giubbotto di pelle e le brache corte. È incredibile. Il volume e gli argomenti che si alzano di livello portano la voce di Lorenzo fuori dai confini dello stivale. Lasciando le idee libere di circolare nel vento, diceva qualcuno, si finisce per trovare chi riesce ad acchiapparle al volo. La musica ha la capacità di estrarre dalle persone emozioni di cui loro nemmeno conoscevano l'esistenza. Attraverso il ritmo, la melodia e il racconto, siamo tutti parte di un'antica tradizione in cui la musica può essere usata sia per il bene che per il male. Sono le parole di Michael Franti, anche se sembrano parole di Lorenzo. Michael è un rapper statunitense, uno che non le manda a dire, uno che canta di AIDS e di senza tetto, della brutalità della polizia, della pena di morte, senza mezzi termini. Si sono conosciuti lui e Lorenzo ed è subito scattata un'intesa. Quando musica e contenuti si amalgamano così bene, è un peccato lasciarsi sfuggire l'occasione. E allora una canzone incisa insieme ne tirerà un'altra e nel mentre ci scappa anche un'esibizione dal vivo a due voci. That's the sound of sunshine. Domanda obbligatoria: che cosa c'è dentro di te in questo momento? Ma c'è un grande entusiasmo, una grande voglia di innamorarmi del mio tempo, una grande voglia di far star bene le persone, di fare bene quello che penso di essere così portato per fare, ovvero portare allegria, far ballare le persone, farle emozionare se è possibile, insomma, raccontare le emozioni, raccontare l'eros, raccontare l'energia, raccontare la possibilità di un futuro radioso se è possibile, o perlomeno anche solo di un futuro. Raccontare il futuro, è questo l'obiettivo di Lorenzo oggi. Ora che Jovanotti ha raggiunto se stesso, che il personaggio e la persona si sono fusi, si può guardare avanti. Se n'è andata anche una parte di quel debito che lui ha sempre avvertito nei confronti della fortuna. Solo una parte però, perché il resto è benzina che brucia e lo fa muovere, dentro e fuori dal palco. È quella che lo ha portato, per esempio, a incidere un album quasi tutto elettronico, alla ricerca di un po' di calore in una fonte di suono così apparentemente fredda. Ed è quella che lo ha trascinato in America, in locali piccoli e angusti, per sperimentare nuovi luoghi in cui fare musica. Lorenzo è un fiume in piena, ed è difficile talvolta capire cosa scorre dentro. Ma è innegabile che ora si muova in un altro modo. È evidente che la sua espressione artistica è molto vicina a dove voleva che arrivasse. Oggi scrive, suona, arrangia, produce, sperimenta e innova e continua a rischiare pazienza se la voce non è quella di un usignuolo. Non si ascolta Lorenzo perché si vuole apprezzare un do di petto. Lo si ascolta perché è un amico e con un amico puoi parlare di quello che ti pare. Bisogna cominciare, secondo me, a raccontarlo anche il futuro, a immaginarlo, no? A immaginarlo. Quello che, se c'è un problema, è la difficoltà ad immaginarlo il futuro, non a crearlo. Oggi abbiamo gli strumenti per creare qualsiasi futuro noi vogliamo.